Ragazzi, v'annunzio Jake Wallace, il cantastorie del campo. La mia mamma.

tutti buona notte. Cosa c'è? Offremini! Mrs. Rance, fra poco, no, anta di chinese, mi desiderate, non ti riferite, ragazzo, e mi schifero, mi compagnissimo, mi compagni, e sono i tempi, e solo sarai bene giù, intende, e buon per te, ti racconti le offese degli ubriachi, e capisca che, vieni, ti urla, urla, ti urla, urla, urla, buonasera, amici. Girano sarebbe molto meglio. You're a famous man.

messo in cammino. A tratto sol dal fascino dell'ora, e questo in suono che non m'ha ingannato, giocare il vostro nome. forse che qui si sa il nome della gente. Jansen! Jansen! E poi? Vengo da Sacramento! Impegnato fra voi! Jansen di Sacramento! Grazie! Vi ricordate di me? Sì, se anche voi mi ricordate. E come non potrei, fu bel sentier che vena montrei. Fu nel tornare, offriste un primo di Gesorino. E poi vi dissi, andiamo a coglierle. Thank you.

In quel barile Johnson c'è un tesoro, ci ripongono loro ragazzi e mi lasciano così. Ogni notte il ricordo qui a vegliarlo a tutta la pompa e l'uomo sto notte, sto notte che mi guarda. questa parola. Sono un vero vignolo, ma so, ma quando tu incontravo mi sorprendo, e perfetto, e mi

deve traportare uscire. No, entra, no, entra. Non credete, non puoi uscire. Entra, no, entra, no. Tra questi brilli non sapete qui. No, se è verità, nasconditi, nasconditi. Aprite la porta, voglio volci. Resta, no, resta, no. Johnson d'infer. N'ho seguito la traccia, deve esser qui, dov'è? Oh, avete seccato con questo nostro Ramirez? E là? Ne son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. Thank you. graffiato. No, non c'è graffio. Guarda, il sangue ancora. È là, è là. Sede di te, perso e distrutto, ma se vinco, t'avrò. Aspettate un momento. Che aspetti? Cerco un nuovo. Pronto, taglia, a te.

forse mi tradisci, parola di me, vada a macchia. Quest'uomo perché sia dato alla comunità, faccia essa giustizia. Buona fortuna, oh mio bel gentiluomo, e così Mr. Johnson, come va? Scusate se t'abbiamo disturbato. Pure che facciate presto! Oh, quanto a questo, bastano sbrigarci pochi minuti. È quello che desidero! E che desideran tutti, vero? Palazzo, come stai? Hai saccheggiato tutto il paese! Accompandallato, rubato e ucciso! No! No! La squadra di Monterrey bandito fu massacrata dalle facce gialle di quelle tue canaglie messicane! Pugna la schiera e spalla il povero Tony! No! Non è vero! Sì! Noi invece ad Alvalde ucciso un postiglione e celesti! No! Assassino vai! Alla volta, quella notte venisti per rubare con gli occhi e sorriso di vigna riservati e lei ci ha rubato il ladro, ladro, ladro, ladro, ladro, ladro, ladro, armiate lo scherno della morte, non mi metto pensiero, e ben voi tutti lo sapete, pistola Siete un braccio, mi scozzo di mia mano. D'altro voglio parlarvi. Promessa che la non sa. sappia mai come son morto. Un minuto sì breve. Lasciatela! Lasciatela! necessario troppo le dobbiamo. E tu, io credo, poi rissigna me. E giri anche tu, uno scrivile prigi. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。 培训班 仅需1980元就能拿到国家承认大学学士学位哦。 看这里看这里，780元导游证包过。 哎呀，别忘了我，100%就业率哦。 啊，该相信谁啊？ 新广告法颁布实施，任何教育培训广告都不能对教育培训效果做出保证性承诺。 快乐假期现在出发吧，